Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi e benvenuti. Non vedevo l'ora di sentirvi perché oggi sarà una puntata davvero speciale. Molti argomenti, tanti ospiti e come al solito anche indicazioni utili per la nostra salute. Partiamo subito con il nostro sommario. Il bello degli anni. Al cervello piace fare una cosa alla volta. Se guidi, non telefonare. Pelle, se la curi bene, diventa più bella. La mattina alle 9 a colazione, mamma prende per la pressione amlodipina, mezza compressina colorata. Poi le medicine le trovi tutte nella valigia. A pranzo, 20 minuti prima di mangiare, per la digestione gli devi dare una compressina bianca di domperidone. E lo stesso la sera alle 21, insomma, quando deve mangiare, 20 minuti prima, prende la compressina bianca di domperidone per la digestione. Prima di andare a letto, l'altra mezza compressina colorata per la pressione, l'amlodipina, ok? Beh. Alimentazione, cibi assolutamente da evitare, Gianni, sono veleni per mamma, latte, formaggi e derivati. È intollerante, si scatena un mal di testa feroce. Memento, no sughi rossi la sera, il pomodoro cotto le dà acidità e non riesce a dormire. Okay? Ho capito. Ti lascio questo appunto. Benissimo. Mi raccomando. Ti ringrazio ancora, Gianni. Stai tranquillo, Marcellino. Domani a mezzogiorno sono qui e ti riprendo. Grazie. Gianni, ciao. Grazie ciao. Ancora. Chissà se avete riconosciuto questo breve estratto da un film che a Venezia ha vinto il premio Opera Prima Luigi De Laurentiis e che ha portato alla ribalta e al successo quattro donne davvero speciali. Sto parlando di Pranzo di Ferragosto, che da pochissimi giorni è disponibile anche in DVD e il cui regista nonché attore principale Gianni Di Gregorio è proprio in linea con noi. Benvenuto, buongiorno. Oh, grazie tante a voi. Senta, buongiorno a lei. Io da quando ho visto il suo film mi sono subito chiesta: ma come gli sarà venuto in mente? Ma guarda, è un po' autobiografico, perché io ho vissuto veramente per molti anni con la mia mamma, fino insomma ai suoi 90 e passa anni, e quindi ho conosciuto tutto il mondo, diciamo così, di questa età avanzata e sono rimasto affascinato proprio dalla vitalità, dalla voglia di vivere delle persone di quell'età, e anche in qualche modo invece mi ha colpito anche quella vulnerabilità, certe debolezze, certe paure della solitudine, e mi è venuta l'idea di fare questo film. Guarda, una gran bella idea che ti devo dire io sfrutto un po' come movie terapia. Il suggerimento mi è arrivato da Alberto Pellai, con cui abbiamo rivisto insieme il film, e rivedendolo mi ha detto: ma Nico, questo non possiamo non proporlo agli ascoltatori di Essere Benessere. Allora Alberto è qui perché l'idea è venuta a lui. Tu sei Ciao Nicoletta. Un grande appassionato di film. E buongiorno a tutti. Devo dire che davvero, signore e signori, segnatevi se ancora non l'avete visto al cinema il titolo di questo film, e se potete andatelo a cercare su DVD. Vi dico perché è davvero un film movie terapeutico. Prima di tutto è davvero un film che celebra la vita e la vitalità che è nascosta in ognuno di noi, e in particolare poi straordinariamente evidente in queste quattro meravigliose vecchiette. Poi secondo me le chiamiamo vecchiette con simpatia, perché certo, credo che noi, proprio questo, ecco, che... E ciascuno di noi può scegliere. Io forse assomiglio più, assolutamente. Poi la seconda cosa, credo che proprio come diceva Gianni Di Gregorio, secondo me questo tocco è proprio affrescato meravigliosamente nel suo film. È un film che celebra la nostalgia. Io credo che ognuno di noi ha un ricordo, ha una memoria, ha un pezzo di vita trascorso insieme a una persona anziana, proprio momenti di infanzia oppure momenti di adultità, e questo film colora la vostra emozione con le immagini, le vicende, le parole e l'andare proprio dentro alla storia di queste quattro donne col suo incedere. Gianni, pensa quanti pensieri hai acceso nella mente di Alberto Pellai. Io ti ringrazio molto, hai detto delle cose bellissime, veramente grazie. Senti, tra l'altro Gianni, una lettura diversa dalla vecchiaia di cui spesso si parla e che spesso si immagina, e io vorrei, così mi piace pensare invece alla vecchiaia come una nuova giovinezza. Sentiamo come la racconta la psicologa Silvia Vegetti Finzi, autrice di Nuovi nonni per nuovi nipoti. Una volta significava andare verso la fine e la terza età era considerata l'ultima. Ora abbiamo molte persone che sono nella quarta età, ci sono in Italia più di 6.000 centenari, quindi è l'età, direi, che viene caratterizzata da un altro fatto, cioè dal poter ricominciare, dal costituire un'altra volta, e che permette di sostituire la parola fine con la parola segue. Non concentrarsi su se stessi, di non dar troppo spazio a doloretti e depressioni e soprattutto cogliere il meglio dalla possibilità di frequentare i giovani, quindi innanzitutto l'essere nonni, che ho studiato in questi ultimi tempi particolarmente, ma non necessariamente del proprio nipote, ma di tutti i nipoti, cioè essere nonni familiari e sociali. E sicuramente sono nonni che hanno cambiato la posizione nella famiglia perché sono diventati centrali, inoltre sono più giovani, più sani, più interessati, con più voglia di vivere rispetto al passato, e costituiscono ormai l'architrave della famiglia, è una risorsa imperdibile per la società. Questo nuovo protagonismo naturalmente li rende desiderosi di essere riconosciuti per quello che sono, non le ombre del passato, ma presenze forti nella società attuale, nella famiglia attuale, e di dire la loro, di dare voce anche alle loro esperienze passate, ma anche a quelle presenti. Gianni, nel tuo film proprio viene rispecchiata questa visione della vecchiaia che ci ha appena raccontato Silvia Vegetti Finzi. Sì, devo dire, la grande lezione mi è stata data proprio dalle signore. Io vorrei ricordare l'età delle signore del film, che sono 93 anni, 90, 88 e 86. Quindi devo dire che a parte si sono divertite tantissimo durante le riprese del film, la sera, quando eravamo tutta la troupe sfinita, nella troupe c'erano anche ragazzi di 25 anni, le signore erano quelle più fresche, che dicevano domani che cosa dobbiamo fare. E già mi chiedevano il programma del giorno seguente, quindi è stato insomma, facevi un po' fatica a tenere il passo, Gianni? Assolutamente sì, perché un entusiasmo, una vitalità pazzesca, un'ironia, queste signore, devo dire, delle personalità formidabili, erano veramente le più in gamba di noi. Senti Alberto, ce la faremo secondo te? Io me lo auguro. A diventare dei vecchietti arzilli, a me viene voglia, perché vedendo queste signore ci danno veramente dei punti. Tu cosa hai imparato, Alberto, da loro? Ma devo dire che ho proprio imparato che nell'essenzialità di ciò che è semplice c'è tutto, e secondo me è proprio un racconto che invita a definirsi per sottrazione. Molti aggiungono cose sul loro corpo, sul loro viso, nella loro vita, pensando che più metti, più sei. Lì dentro a questo film è stato tolto tutto, rimane l'essenza, e l'essenza è tutto. Senti Gianni, di ciascuna delle protagoniste tiriamo fuori una caratteristica, un messaggio, un esempio da seguire? Ce la facciamo, tu le conosci bene. Sì, ma devo dire, Valeria, la signora che è la mia mamma nel film, ha uno spirito, un'ironia ed è anche carica di affetto proprio, una persona meravigliosa. Marina, la bionda che poi di notte se ne va nel film, devo dire, è veramente vulcanica, ecco, non so, non ho altre parole, perché veramente poi lo spirito rappresenta proprio lo spirito in qualche modo della libertà, della propria dignità personale. Devo dire un'altra cosa, che le signore sul copione intervenivano, certe cose non le volevano dire. Scusa, dov'è che hanno fatto i tagli? Guarda, in molte occasioni improvvisavano, noi organizzavamo le sequenze secondo un senso della sequenza, ma le signore si muovevano e parlavano con parole loro, dicendo cose molto più belle di quelle che avevo scritto in sceneggiatura, ecco. Questo è stato un enorme vantaggio per me. E certo, perché ti sei fatta aiutare. Hai avuto un sacco di aiuto da queste quattro magnifiche donne. Senti, io andrei proprio a sentire le voci delle protagoniste, perché il DVD ha dentro un'infinità di piccole chicche. Andiamo. Il film è stata mi dispiace ripetermi, ma un regalo della vita. Che a 90 anni non ti aspetti, ormai a 90 anni, quello che è passato. Un regalo della vita, un bellissimo, splendido regalo della vita. Siamo quattro vecchie, ognuna con un carattere diverso, con delle caratteristiche forti, per cui, non so, quasi per miracolo siamo andate d'accordo, insomma, onestamente. A 80 anni, nonna Maria, alla pasta al forno più buona che ci sia. Mi riconoscono, mi fanno tante, insomma, tante feste. Ma vorrei che anche le altre della stessa età mi venissero dietro, facessero come facciamo noi, che stanno dentro casa. Bisogna uscire per trovare qualche cosa, cominciare a vivere un pochetto. Avevo preso tutto sullo scherzo, proprio per un gioco. Ho detto, questo è un gioco, io ci provo. È andata bene per tutti, perché la soddisfazione ne abbiamo avuta anche troppo. Siamo andati lì e mi ha detto, guarda, mi ha spiegato, tu sei la mamma di, fai la vedova, la mamma di questo, e dici quello che vuoi. Magari avere un copione mi avrebbe fatto, siccome però non l'avevo mai avuto, cioè quello che dici, dici. Qualche frescaccetta l'ho detta, però perché mi veniva istintiva. Oh Gianni, qualche frescaccetta, bello, bello, queste donne che dicono usciamo, seguiteci, mi sono piene di vita. Piene di vita, davvero una lezione meravigliosa, sì. Spero che i nostri ascoltatori abbiano proprio notato la finezza di una delle quattro che, parlando di sé e parlando alle altre donne, dice a 90 anni che bisogna cominciare a vivere un pochetto. Cioè proprio, hai capito, è da lì che si comincia, è da lì che si parte. Senti Gianni, tu hai imparato quindi da queste tue mamme, praticamente mamme sono. Mamme, sì, perché poi è nato un rapporto bellissimo, adesso mi telefonano in continuazione, sono quattro mamme davvero, mi dicono non bere, non fumare, non mettiti una maglietta di lana, è diventato un rapporto davvero. Senti, ma ti preparano anche le lasagne, vien voglia di lasagna, eh? Sì, devo dire che lì sì, la lasagna era meravigliosa, era la vera lasagna di nonna Maria, di quella signora siciliana, ed era la sua ricetta, assolutamente. Sì. Senti Alberto, le lasagne una volta alla settimana, torna in te come medico, una volta alla settimana possiamo regalarcele. Una volta alla settimana. Poi fatte bene, io devo dire che faccio delle buone lasagne. Però Gianni, se vuoi venire, io guarda, mi avvicino come età e se fai il prossimo film veniamo io e Alberto. Un po' di frescacce le diciamo sicuramente, ci avviciniamo un po' per età, facciamo un po' prima dei nonni. Alberto. Allora, diciamo chiaramente a chi vorremmo che vedesse questo film. Se alla mattina vi alzate e già tutto vi sembra buio nonostante è giorno, fate entrare questo film nella vostra vita come un raggio di sole. Davvero provate a fidarvi di noi in questo momento, prendetelo e usatelo come un antidepressivo e vedrete che funziona. Può essere proprio che ogni tanto guardiamo il momento in cui siamo arrivati nella nostra vita non con la gioia di vedere cosa abbiamo già compiuto, ma con la paura che stiamo invecchiando. Se avete ogni tanto questa paura che vi assale e vedete la vecchiaia come un punto di non ritorno, sappiate che queste nonne ci insegnano che invece è proprio cominciato il momento di vivere per davvero. Per cui se avete La paura di invecchiare, rimettetevi più e più volte su questo film e vedrete che vi passa. Gianni, invece tu che cosa hai imparato? Hai trovato anche tu una ricetta per guardare agli anni che passano in modo diverso da quello che solitamente vogliono farceli vedere, no? Ma sì, devo dire che io ho provato una, nonostante abbia, io sono un esordiente ma ho 59 anni, quindi io ho riprovato una nuova giovinezza. Per me è stata una lezione veramente, ecco, come dicevate, a guardare non solo all'invecchiamento come una cosa appunto naturale e dove ci sono delle cose dentro bellissime, ma in generale in ogni momento di difficoltà bisogna sempre in ogni caso andare avanti e pensare al meglio e prendere il lato positivo, ecco. Gianni, grazie per essere stato con noi. Hai prossimi programmi? Vuoi farci delle anticipazioni o non si può? No, perché per ora sono ancora dietro al film che sta girando anche per il mondo e quindi ancora non riesco a pensare. Va bene, però noi ti aspettiamo. Gianni, grazie, complimenti, grazie, un abbraccio. Tantissimo, grazie. Direi, Alberto, se vogliamo completare la nostra movie terapia tematica che oggi abbiamo dedicato proprio al piacere di vedere gli anni che passano, a gustare gli anni che passano, in questi giorni è proprio uscito un altro DVD che tu prontamente hai segnalato. Andiamo. Siamo qui per il matrimonio. Ci stavi aspettando? Oh mio Dio, sì, sì. Lo hai trovato? Beh, non esattamente. Ho trovato il diario di mia madre e ho 3 possibili padri. E devo dire a 2 che sono di troppo, ma a quali 2? Ho spedito io gli inviti, mia mamma non sa niente. Sei una smorfiosa, sei uguale a tua madre. Mamma mia, here I go again. Hai sempre saputo come fare un'entrata. Mamma mia, Alberto! Pensa che questa era la musica della mia giovinezza, quindi mi devo già considerare proprio... Meglio, no? Noi ci troviamo a Ferragosto. E guarda, lo consigliamo questo film, lo mettiamo proprio in questo progetto di movie terapia per i nostri ascoltatori, perché tutto quello che nel suo film Gianni Di Gregorio racconta attraverso le espressioni e le parole, in questo film Mamma Mia diventa soprattutto azione e danza. Quindi se vuoi proprio Mentre pranzo di Ferragosto è un lavoro sui pensieri e sulle emozioni, Mamma Mia secondo me è proprio un film molto energetico. Fisico, energetico, corporeo. Quindi volendo dare delle indicazioni più precise, Mamma Mia a chi? Uomo, donna, di che età? E invece Pranzo di Ferragosto, in modo particolare, in quale momento della giornata, l'hai detto al mattino per ridarsi la carica, ma il profilo ideale? Allora, direi che, premesso che sono davvero film senza età, Mamma Mia probabilmente per chi sta negli anta, cioè tra i 50 e i 70, questo è il vostro film, ritroverete un po' della vostra giovinezza, sentirete proprio l'energia che vi passa attraverso la danza e la musica di questo film, e dopo averlo visto non potrete fare a meno di scendere per la strada e fare anche voi qualche danza. E invece Pranzo di Ferragosto ha 2 gruppi di persone in particolare, 70-90 anni secondo me e oltre, 70, 90, 100, 110, 110, 120, senza limiti. Primo aspetto, e secondo me un altro davvero spettatore ideale per questo film è chi si trova nella vita a dover assistere a persone anziane, probabilmente vive un'esperienza che a volte anche molto faticosa. Gianni Di Gregorio, che è il protagonista oltre che il regista, ha una finezza nello stare vicino a queste nonne, ma ci fa vedere anche proprio la fatica di doverlo fare o di poterlo fare, ma alla fine ne viene fuori una sintesi umana e molto bella. Ha avuto una buona scuola Gianni, perché ha detto vissuto tanto con la mamma e quindi si vede. Alberto, ti sei meritato le mie splendide lasagne, te le farò io anche prima di Ferragosto. Grazie ad Alberto Pellai, noi ci vediamo e ci sentiamo sabato per Questa casa non è un albergo. Molto volentieri, grazie a te, ciao Nicoletta. Grazie. Siamo tornati insieme, adesso parliamo di ricerca. Ci sono alcuni studi molto interessanti che voglio segnalarvi. Ci facciamo aiutare come sempre dal professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore del Mario Negri di Bergamo, che è in linea con noi. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, iniziamo dai risultati di alcune ricerche che ci invitano a riflettere sui pericoli che corriamo usando il cellulare alla guida. Non c'è auricolare che tenga, le conversazioni distraggono il nostro cervello, che ama evidentemente fare una cosa alla volta. Guidare col cellulare non si può, è logico, guidare con una sola mano è pericoloso, ma non c'è problema, dicono, se si parla con l'auricolare o col viva voce. Non c'è problema, ma veramente il problema c'è, secondo alcune ricerche recenti. Il pericolo di telefonare in macchina non viene da dove tieni le mani, ma da dove sta il cervello. Telefonare distrae e toglie l'attenzione dalla strada, anche con l'auricolare. C'è un dato statistico che dimostra che i guidatori al telefono corrono un rischio 4 volte maggiore di avere un incidente, lo stesso di chi guida dopo aver assunto alcol. Non è chiaro perché questo succede, ma sembra che la conversazione al telefono, anche con le mani libere, distoglie almeno in parte l'attenzione dalla guida. Per esempio, non si vede bene la strada. Hanno fatto degli studi sul movimento degli occhi durante la guida che documentano che lo sguardo del guidatore normalmente continua a spostarsi da un lato all'altro della strada, ma se si telefona lo sguardo diventa fisso davanti a sé. Lo hanno studiato all'Università dello Utah con uno simulatore di guida molto sofisticato che può riprodurre diverse condizioni di viaggio, come se si fosse su un'autostrada o in città con i semafori, il traffico e le auto e i pedoni. Gli studi con questo simulatore hanno dimostrato che durante la guida conversare al telefono distrae molto di più di quanto non si conversi con un compagno di viaggio o se si ascolta la radio. Cambiamo argomento, torniamo a parlare di attività fisica, lo facciamo spesso proprio per sottolineare i benefici sul piano fisico e mentale di questa sorta di farmaco naturale senza controindicazioni, ma i ricercatori hanno allargato il campo. Che l'attività fisica aiuti lo sanno tutti. Il problema adesso è vedere, l'attività fisica aiuta anche le persone con gravi disturbi mentali, per esempio persone con la depressione o addirittura schizofrenici. Il problema è stato affrontato da ricercatori dell'Università dell'Indiana, hanno studiato 20 persone con gravi disturbi mentali che normalmente non facevano attività fisica. Queste persone sono state stimolate a fare del moto anche in forma blanda, per esempio semplicemente a camminare. I ricercatori hanno notato un netto miglioramento del loro umore dopo l'esercizio. L'attività fisica, anche una semplice camminata, dovrebbe rientrare regolarmente nei programmi di riabilitazione delle persone con disturbi psichiatrici gravi. Dopo l'allarme arrivato dall'America sull'abuso dei farmaci da parte degli studenti universitari, ne abbiamo parlato recentemente, li usano soprattutto per stimolare la memoria, alcuni dati sottolineano un preoccupante aumento del consumo di pillole per dormire, sempre tra gli universitari. L'impiego di questi farmaci è aumentato moltissimo nei giovani adulti, ma soprattutto nella fascia di età tra i 18 e i 24 anni. Addirittura 3 volte di più di quanto non succedeva qualche anno fa. L'insonnia cronica che induce a usare questi farmaci è provocata da disturbi psichici come ansia e depressione che sono in aumento tra i giovani. Uno psichiatra del Massachusetts ha fatto notare che i ragazzi che oggi sono all'università sono proprio quelli a cui i genitori hanno cominciato a dare farmaci, il Ritalin per esempio, per curare i disturbi da deficit di attenzione o da iperattività, e spesso si esagera con queste indicazioni. È possibile che si sia fatta largo l'idea che tutto si possa curare con i farmaci, ma questa è un'arma a doppio taglio perché induce una dipendenza da farmaci che poi è molto pericolosa. E per finire, eucalipto, mentolo e canfora, sostanze presenti in prodotti utilizzati per inalazione o per massaggi locali, su torace e schiena per dare sollievo ai bambini raffreddati, sono finiti sotto la lente dei ricercatori che ne hanno valutato i vantaggi e i rischi. C'è una ricerca in America, è pubblicata su una rivista importante, che ha proprio affrontato questo problema. Queste sostanze stimolano i bronchi a produrre più muco e questo potrebbe ostruire le vie aeree che nei bambini piccoli sono più sottili e delicate e questo può provocare uno stress respiratorio. In effetti questi prodotti nella scheda, il cosiddetto bugiardino, si dice non deve essere impiegato nei bambini di meno di 2 anni, ma spesso i genitori lo usano anche nei bimbi piccoli. Sono sostanze che hanno un buon odore, che danno l'impressione di sollievo, ma in realtà si è visto che non hanno nessun effetto nel migliorare la respirazione. Grazie professor Remuzzi, a presto con nuovi aggiornamenti dal mondo della ricerca. Buona giornata anche a lei. Buona giornata. Ieri ci siamo occupati delle nostre unghie, il popolo dei rosicchiatori si è messo al lavoro. Avevamo invitato ad annotare su un foglio il motivo, la ragione, lo stato d'animo che induceva al rosicchiamento. E sono già arrivate al nostro indirizzo di posta elettronica alcune pagine di diario. Ne abbiamo selezionato una che ci è sembrata molto divertente, quella di Anna Maria, che ascoltiamo. Ore 11.50. Inizio da ora a scrivere il diario, ma vi devo dire che ho trovato il modo di scrivere e rosicchiare contemporaneamente. Devo finire un'unghietta che mi dà grande soddisfazione. Io la rosicchio dalla gioia. E già che ci sono, mangio anche la pellicina. Motivo? A sentir parlare di unghie mi è venuta voglia di mangiarla. È colpa vostra. Ore 13.45. L'acqua della pasta non cuoce mai. Intanto che aspetto, rosicchio. Motivo? Ingannare l'attesa. Ore 17.23. Mi ero dimenticata del diario. Recupero. Mi sento stanca e rosicchio un po'. Ma prima ci ho dato dentro perché non riuscivo a concentrarmi. Ore 19.30. Stavo perdendo questo appuntamento perché rosicchiavo in automatico. Ma la mia amica mi ha detto: ci dai dentro. E allora ho smesso per scrivere. Motivazione? Rimbambimento. A domani per nuove avventure. Bene, continuate anche voi a scriverci. Intanto, dopo le unghie, ci occupiamo della nostra pelle e abbiamo un bel da fare. Quindi mettiamoci subito al lavoro. In linea con noi per aiutarci abbiamo il professor Antonino Di Pietro, dermatologo, presidente dell'ISPLAD. Professor Di Pietro, buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Professore, la pelle è un organo di senso sincero, a volte forse troppo, perché i segreti non riesce a tenerseli, non ce la fa. Spiattella anche le emozioni che magari noi non vorremmo mettere in piazza, ma fa così. È proprio così perché la nostra pelle è direttamente collegata al sistema nervoso. Infatti, quando un bambino si sta formando nel grembo materno, nelle prime settimane di vita, dallo stesso gruppo di cellule da cui originerà poi il sistema nervoso, prenderà origine anche la pelle, quindi il tessuto di rivestimento, la pelle esternamente e le mucose internamente. Ed è per questo che le sensazioni che noi proviamo a livello mentale si leggono sulla nostra pelle. Quando noi siamo emozionati diventiamo più rossi, oppure quando siamo spaventati diventiamo più pallidi, perché c'è un diretto collegamento con i vasi sanguigni che ci sono nella nostra pelle. E quando siamo felici tutti dicono: come stai bene, si vede che sei felice. Oppure hai una pelle luminosa. Ecco, una pelle luminosa, o se siamo preoccupati, stanchi, ce lo si legge in faccia. Quindi c'è un contatto diretto anatomico, molto stretto tra pelle e sistema nervoso. Professor Di Pietro, però anche la pelle parla, cioè se la trattiamo bene, se sta bene, si vede e ci manda dei segnali chiari, è contenta, è rosata, certo. Tonica, luminosa. Certo, è proprio così, perché c'è una liberazione di endorfine, c'è una trasmissione di impulsi nervosi che ai vasi sanguigni dà l'input perché riescono ad irrorare meglio la nostra pelle. Quando noi siamo tesi, nervosi, si creano delle vasocostrizioni, si dice, cioè degli spasmi dei vasi sanguigni, per cui arriva meno sangue alla nostra pelle e la pelle diventa sofferente, cambia colore, diventa col tempo anche più precocemente più vecchia, perché viene ossigenata meno. I visi di chi ha sofferto tanto purtroppo nella vita si vedono, perché certo, a parità di anni sono dei visi più vecchi proprio per proprio, i dolori purtroppo. Certo, segnati professor segnati. Di Pietro, noi abbiamo proprio fatto una movie terapia con Gianni Di Gregorio partendo dal film Il pranzo di Ferragosto, per sottolineare un po' come si può invecchiare bene, con allegria, con gioia, e noi vorremmo aiutare la nostra pelle a invecchiare in modo normale, naturale, bello, a segnarsi ma non proprio proprio non troppo, e quindi a mantenere un'immagine di freschezza. E professor Di Pietro, dipende anche da come l'abbiamo trattata nel corso degli anni. Una pelle coccolata, nutrita, ben detersa, è sicuramente una pelle che risponde meglio agli anni. Sì, certo. E ci sono anche delle regole importanti che vanno seguite, cominciando ad esempio dal primo gesto, no? All'inizio della giornata, che è la detersione. Sì, quindi detersione... il buongiorno si vede dal mattino, anche per la pelle. Certo, ed è un momento importante perché ci svegliamo e abbiamo il contatto con l'acqua, con il sapone che utilizziamo anche per lavarci. Allora, fermo restando che il sapone deve essere estremamente delicato, per essere estremamente delicato deve fare poca schiuma, perché più schiuma fa, più sgrassa la cute, e questo non va bene. Ma è molto importante anche la qualità dell'acqua con cui ci laviamo. Le acque possono essere dure o dolci. Siamo tornati insieme, professor Di Pietro, eravamo ad un punto importante. La detersione è un gesto quotidiano, è il saluto alla nostra pelle, fa bene alla nostra pelle, bisogna scegliere il sapone giusto, il detergente giusto, ma anche l'acqua. Eh sì, certo, anche l'acqua. L'acqua è molto importante e l'acqua può essere di due tipi soprattutto, un'acqua dolce o un'acqua dura. Come facciamo a sapere qual è l'acqua che scende dal nostro rubinetto con cui ci laviamo? È semplice, perché un'acqua è dolce quando ha pochi sali. Sì. E se ci insaponiamo il viso con un'acqua dolce, il sapone viene via molto facilmente. Un'acqua dura è ricca di sali e facciamo più fatica a mandar via il sapone che è sul nostro viso. Un'acqua dura, piena di sali, è un'acqua che disidrata anche. Un'acqua dolce invece è un'acqua più delicata. Allora, se dal nostro rubinetto esce un'acqua dura, per salvaguardare la pelle del viso, per proteggerla di più, in teoria sarebbe meglio prendere dell'acqua olico-minerale, magari in bottiglia, e lavarsi e sciacquare il viso con quell'acqua. Oppure la usiamo come tonico per non buttarne tanta. Oppure come tonico per rimuovere quelle tracce di sale, certo, che anche se minime ma sono importanti per la nostra pelle, che potrebbero seccarla. E dopo la detersione con il detergente e l'acqua giusta passiamo al nutrimento. Però, professor Di Pietro, non tutti i tipi di pelle hanno gli stessi gusti o meglio le stesse necessità. Certo, non tutti i tipi di pelle e soprattutto anche non per tutta la vita, perché nel corso della vita la nostra pelle può cambiare le proprie caratteristiche e questo dipende da fattori ormonali, metabolici. Il nutrimento diventa quindi importante, ma il nutrimento non è solo la crema che mettiamo sul viso. Ma come la scegliamo, professor Di Pietro? Guardi, la crema è come un abito su misura, dico ai miei pazienti. È impossibile poter dire con sicurezza, guardi, questa è la migliore crema per lei. Il dermatologo è un po' come un sarto, è tanto più bravo quanto più riesce al primo colpo a dare una crema giusta, ma a volte può esserci anche un aggiustamento perché può essere troppo grasso o troppo magra. Ecco, quindi c'è sempre una sensorialità. Quindi la nostra pelle che parla e che ci guida. Certo. Mentre noi possiamo con una dieta, queste sono delle regole che valgono per tutti i tipi di pelle, immagino per tutte le età, un tipo di dieta che aiuta la nostra pelle a rimanere sana e a rimanere bella. Questo sì, è importantissimo. Perché la natura ci aiuta moltissimo, noi del resto siamo quello che mangiamo e nella nostra pelle ci sono delle cellule, ci sono degli organi importantissimi, ci sono dei punti come ad esempio il microcircolo che deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Noi sappiamo che nelle more, nei mirtilli, quindi nei frutti di bosco, ci sono degli elementi che si chiamano flavonoidi, importantissimi per mantenere elastiche le pareti dei vasi sanguigni. E questo è fondamentale perché il sangue riesce ad ossigenare meglio le cellule della pelle a farle funzionare di più, a far produrre quantità di collagene corrette, adeguate, che ci manterranno giovani. Nell'attesa quindi che maturino i frutti di bosco, siamo alla fine dell'inverno, io dico così, è vicino alla primavera, perché mi piace pensare che tra poco arriva, frutta e verdura di stagione non sono assolutamente... Le vitamine fondamentali, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina F. Sono proprio delle creme di bellezza. Noi possiamo, certo, infatti anche con dei prodotti freschi si preparano delle creme di bellezza, di cui abbiamo dato anche tante volte delle ricette. Certo. Professor Di Pietro, gli anni comunque passano, per fortuna, perché ma segnano la pelle, no? Meno male. Ci troviamo anche diversi, anche più belli. Però comunque la nostra pelle rimane un po' segnata, perde tono, turgore, compaiono queste rughe. È inevitabile e per fortuna è così, ma non sempre ci piace. Così la ricerca da anni sforna trattamenti su trattamenti che promettono di restituire quello che gli anni hanno tolto. Però, secondo me, il rischio è che a forza di riempire, cancellare, levigare, spianare, ci si trovi con un'altra faccia, professor Di Pietro. Io vedo tante facce diverse in giro, che all'inizio magari... all'inizio sono belle perché si usano dei trattamenti che hanno il vantaggio magari di cancellare solo quella stanchezza che invecchia. Poi le rincontro dopo un anno e non le riconosco quasi più, sono diverse. Sì, diventano quasi delle maschere da clown a volte. È verissimo, questo è verissimo, ma io continuo a sostenere, a volte anche con forza, che non si deve riempire una ruga, ma si deve curare una ruga, e curare la ruga vuol dire anche curare la pelle, mantenerla in forma. Un viso dove ci si accanisce a tutti i costi a eliminare anche la più piccola ruga è un viso che si trasforma, è un viso che diventa buffo. Ma come si fa a non esagerare? Magari intervenendo su quelle rughe, su quei segni degli anni che possono in qualche modo restituirci la bellezza senza toglierci il fascino degli anni. Le faccio un esempio. Molte signore arrivano da me perché non vogliono più quelle rughe, quelle pieghe che ci sono tra il naso e la bocca, sì, e che intorno ai 50 anni cominciano a diventare un po' più accentuate. Sì. Allora lì c'è un panico generale, dicono io non voglio più vedere queste pieghe, dimenticando che a 20 anni quelle pieghe c'erano già, ma anche a 18 anni c'erano quelle pieghe, sono solamente un po' più profonde quando arrivano a 50. La cosa importante è far sì che da pieghe profonde diventino pieghe meno profonde. Sì. I guai cominciano quando spianiamo. I costi non si vogliono più vedere. È un po' come cancellare veramente quello che è la propria esperienza, la propria vita. Allora e lì è l'errore. E lì iniziano i guai. Quindi bisogna fermarsi prima. Rinfrescare il viso, ma non a tutti i costi gonfiarlo come un pallone. Professore, in linea con noi abbiamo un suo collega, il professor Marco Klinger, direttore della seconda scuola di specializzazione in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica dell'Università di Milano. Professor Klinger, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, saluto anche il mio amico Di Pietro. Sì, ciao Marco. Ciao. Allora, ci sono persone, stavamo chiacchierando con il professor Di Pietro per fare dei ritocchi leggeri che ci lascino il viso con gli anni che ha, ma bello, perché anche gli anni possono darci fascino. Però, professor Klinger, c'è chi non ne vuole sapere, si accanisce e arriva anche alla chirurgia. Abbiamo avuto un boom, continuano a salire le richieste di interventi, ma professor Klinger, bisogna sempre passare dal chirurgo o c'è qualcosa di nuovo? No, innanzitutto dalle persone serie come il dottor Di Pietro, e ce ne sono parecchi come lui, i consigli che si ricevono sono sempre ottimi. Il momento nostro della chirurgia plastica è assolutamente favorevole. Una certamente l'arma chirurgica, c'è chi può prendere in considerazione, chi no. È un'arma molto migliore del passato, perché le pazienti liftate oggi non sono più quelle maschere di cui se ne vedono ancora in giro parecchie, fatte di ossa sulle quali la pelle è tirata, e sono non delle persone più giovani ma delle persone, come dire, solamente tirate, che non è lo stesso effetto. Sì. Ma invece la chirurgia di oggi permette di avere risultati molto più naturali, molto soft, che è una parola che si usa molto, no? È tra virgolettato. E tutto questo dà grande soddisfazione alle pazienti, anche ai chirurghi, oltretutto con dei tempi operatori ridotti, eccetera. Poi c'è il grande aspetto di cui ha già parlato Di Pietro, che anch'io da chirurgo plastico sottolineo, che è quello della rigenerazione tessutale, sì, che è un campo meraviglioso in cui noi in particolare abbiamo dato la nostra, abbiamo contribuito per la nostra parte riguardante alle staminali nel grasso, ai fibroblasti e tutte quelle cose magiche di cui noi siamo già dotati, che possono essere utilizzate per rigenerare i tessuti. Ed è un discorso veramente che, come dire, è il futuro, sia quello che ha detto Di Pietro che quello che diciamo noi, ecco. Certo, quindi insomma è un iter, siete d'accordo, la ricerca continua. Professor Di Pietro, concludiamo questo nostro incontro con una raccomandazione, un consiglio da esperto, e poi lo chiedo anche al professor Klinger. Bisogna aiutare la nostra pelle a star bene, quindi ben vengono tutte quelle terapie che vengono proposte da medici i quali sostengono e dicono la pelle va aiutata a vivere. Quando si sentono fare queste proposte, perfetto, va benissimo, questo sarà il futuro, e mi auguro che tra qualche anno non ci saranno più queste maschere da clown che si vedono. Professor Klinger? La cosa che conta è la serietà dell'interlocutore che un paziente ha di fronte, cioè la scelta del proprio medico, e come sempre il cocktail che viene dall'intelligenza del medico e dalla correttezza del medico, dall'intelligenza del paziente, è quello che porta ad avere il prodotto naturale, il risultato migliore. Aggiungo per gli amici da casa: piacetevi, sorridetevi e iniziate anche ad amare le vostre rughe. Siete comunque belli, perché la bellezza parte da dentro. Sembra scontato, ma è davvero così. Gli occhi parlano. Professor Di Pietro, professor Klinger, grazie per essere stati con noi. A presto. Grazie ancora Nicoletta, arrivederci. Grazie. Buona giornata. Vi ricordo che oggi è una giornata importante, perché oggi è la giornata mondiale contro il cancro, l'ha indetta da anni l'OMS, che quest'anno proprio punta sulla prevenzione del fumo passivo. Io vi ricordo che è sempre attivo il nostro forum per aiutare i nostri ascoltatori, tutti voi, tutti noi, a smettere di fumare. C'è una grande comunità, un moderatore che è il dottor Boffi. Scrivete, noi siamo qui pronti per darvi una mano. Intanto io vi saluto, vi ringrazio, appuntamento come sempre domani, un bel sorriso, mi raccomando, oggi guardatevi con altri occhi, io vi aspetto domani dopo il GR delle 11.